gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Radio Miami International, eccoci qua all'interno di I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana alla conduzione Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Cari amici, come state? Tutto bene? Io tutto bene, dai, non mi lamento, spero che anche per voi sia la stessa cosa. Siete su Radio Miami International, la WRMI, Double RMI, la nostra trasmissione I Love Italy, che prevede appunto, come detto in apertura, 15 minuti in lingua italiana alla conduzione Andy Mangiarotti. In apertura vi ricordiamo gli orari di messa in onda di I Love Italy alle 20.45 UTC, ora italiana 21.45, il sabato sulla frequenza 7730 kHz. Poi sempre il sabato siamo in onda alle ore 21 UTC, corrispondenti alle ore 22 italiane. E siamo in onda sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz. E poi anche il giovedì siamo in onda alle 20.30 UTC, corrispondenti alle 21.30 ora italiana, e siamo sempre in onda sulla frequenza dei 15.770 kHz. Se volete interagire con il programma per mandarci dei rapporti di ricezione, vi ricordo voiceofitaly.it oppure il sito di Radio Miami International, wrmi.net, dove è possibile inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Poi c'è anche il mio sito personale, andreamangiarotti.com, per interagire con Andrea e soprattutto per dialogare con me, sempre se avete piacere. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Ecco qua, abbiamo ricordato anche il sito in lingua inglese, lì trovate tutto per scrivermi, per inviarmi rapporti di ricezione, chi più ne ha più ne metta. Ora però salutiamo alcuni amici che ci hanno inviato dei rapporti di ricezione o semplicemente dei saluti. Il primo è il caro Roberto Pavanello, che ci scrive dalla bella Vercelli, tra le altre cose abbastanza vicina qua all'Oltrepò Pavese, qua nei nostri studi di Radio Miami, e Roberto ci scrive: spettabile I Love Italy, è con piacere che ho avuto modo di ascoltare qui a Vercelli la vostra emittente, vi invio questo rapporto d'ascolto nella speranza che abbiate la cortesia di confermare la mia ricezione con una vostra QSL o con una mail. Ho seguito il vostro programma in lingua italiana sabato 14 ottobre 2023 dalle 23 alle 23.15 ora italiana, corrispondente alle 21.15 UTC, sulla frequenza dei 15.770 kHz. La qualità del segnale ricevuto era buona, secondo il codice SIMPO 353. 3-3. L'ascolto è stato effettuato con un ricevitore Texun PL 660 munito di filare di 30 metri. Per dimostrarvi che vi ho effettivamente ascoltato, riporto alcuni dettagli del contenuto del programma. Saluti ad ascoltatori dall'Algeria e dalla Cina, numero per messaggi WhatsApp e trasmissione sullo stilista Giorgio Armani. Poi ha allegato un breve video dove si ascolta proprio la mia voce. Nella speranza di una vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti. Roberto Pavanello. Noi al caro Roberto abbiamo inviato una cartolina QSL cartacea, perché a me piacciono le cose come una volta, penna e calamaio. Scrivere proprio una cartolina, cosa c'è di più bello di scrivere una cartolina cartacea? Le mail non è che la gradisco molto, anche se so che molte radio, fatta eccezione della nostra, di Radio Miami, ancora mandano, per velocizzare la cosa, il rapporto di ricezione magari confermato tramite email. Io no, io sono ancora l'antica, quindi scrivetemi e vi mando la cartolina ufficiale di I Love Italy. Tra le altre cose è cambiata, è molto carina, ho inventato qualcos'altro. Scrivetemi e mandatemi un rapporto di ricezione e vi mando il tutto gratuitamente. E poi volevo mandare un messaggio a Joseph Giachele, che ci aveva scritto il 30 agosto sulla nostra paginetta Facebook di I Love Italy. Buongiorno, mi può dare conferma della trasmissione, frequenza e orario? Noi l'abbiamo ricordato all'inizio, però ricordate che questi orari possono variare, quindi l'invito è quello di visitare www.rmi.net. Lì trovate proprio gli orari sempre aggiornati di I Love Italy, della nostra trasmissione. Studio Pirata oltre Pop Avese, 377 45 63 033, 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram. È anche quindi possibile scriverci attraverso WhatsApp e Telegram. Ricordate il numero 377 456 3033, 377 456 3033 per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram. Ora però entriamo nel vivo della trasmissione odierna. Quest'oggi a I Love Italy parliamo di un personaggio veramente importante. Sto parlando dell'umorista surreale, il maestro di giochi di parole, veniva definito così negli anni 30, Achille Campanile. Chi è stato Achille Campanile? È stato un grande scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista italiano. Celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole, Achille Campanile è nato a Roma il 28 settembre del 1899. Campanile ha lasciato un'impronta veramente indelebile nella nostra cultura, con la sua prosa curata e con il suo talento, nonché anche la sua satira. Campanile proveniva da una famiglia legata all'ambiente artistico, perché suo padre Gaetano Campanile Mancini era un regista di film muto, quindi pensate, qua siamo nell'inizio del Novecento, e redattore capo anche del quotidiano La Tribuna. La sua carriera giornalistica iniziò con un racconto di una storia insolita. Attenzione, sentite che storia che ha composto Campanile. La storia racconta la vita di una vedova che visitava la tomba di suo marito ogni giorno, fino a quando fu trovata morta sulla stessa tomba. Questa storia, intitolata ironicamente «Tanto va la gatta al lardo», lo fece notare da Silvio D'Amico, responsabile della terza pagina del giornale. E così qua inizia a scrivere sul quotidiano La Tribuna. Però poi Campanile inizia anche a intraprendere le strade nel mondo culturale. Siamo negli anni 20 e attenzione, ha attirato l'attenzione di luminari come Luigi Pirandello, uno dei mostri sacri del teatro italiano, nonché anche Eugenio Montale, grande poeta della nostra nazione. La sua carriera letteraria si affermò con opere come 150, La gallina canta, L'inventore del cavallo. Il suo stile di scrittura era noto per la sua precisione linguistica e l'uso sofisticato del lessico. Spesso costruiva spettacoli logici che mettevano in ridicolo le convenzioni sociali. Quindi faceva anche un tipo di satira sociale. Le tragedie in due battute costituiscono un contributo innovativo delle sue opere. Questi atti unici, spesso composti da un numero minimo di battute, sfidavano la convenzione teatrale e mettevano in evidenza il suo talento per il paradosso. Il suo stile unico lo rese un classico del Novecento, con critici come Carlo Bo e Enzio Siciliano elogiandone la capacità di suscitare la risa e la sua empia irriverenza. Campanile fu sottovalutato per gli anni 60, che negli anni 50, viene riscoperto negli anni 70, viene rivalutato. La sua abilità nell'esplorare il ridicolo dei luoghi comuni, il suo talento nel sovvertire le aspettative, lo rendono un maestro dell'umorismo paradossale e surreale. La sua influenza si estese anche alla televisione e alla radio, dove continuò a intrattenere il pubblico con il suo umorismo unico. Achille Campanile purtroppo morì all'Ariano il 4 gennaio del 1971, ma il suo lavoro continua a ispirare coloro che apprezzano la satira intelligente e l'uso creativo della nostra lingua. Questo in breve era una biografia di questo grande artista del Novecento italiano, Achille Campanile, e proprio di Campanile vi vorrei leggere un racconto che secondo me è bellissimo. Lo adoro, è uno dei miei racconti preferiti. Si parla dei nostri cari morti, il titolo è proprio questo. Attenzione, lo leggiamo e poi ci congediamo. Di Achille Campanile, I nostri morti. O voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma quando si chiudono le porte e si accendono i lumi dentro le case, le anime di coloro che non sono più vanno a trovare i poveri vivi. S'avanzano leggere, si affacciano in punta di piedi ai vetri della finestra, piano terra, per guardare non viste quello che accade all'interno. Le anime accomandano i fiori sulle siepi, fregano per i superstiti che vedono andare e venire per le stanze, accudendo le tranquille faccende della sera. Gettano piccoli baci attraverso i vetri nell'interno e qualche volta guardano se ancora ci sono le loro fotografie appese alle pareti, lì dentro. Una donna va e viene, prepara la cena, apparecchia la tavola e porta a vedere un dolce che sta facendo con le sue mani. Si fa andare il grammofono, si sfoglia il giornale, mentre fuori è buio e tira vento. Poveri vivi, le anime li stanno a guardare non viste attraverso i vetri delle finestre e piangono per loro, qualche volta cercano di fare qualche piccolo segnale e battono un piccolo colpetto sul vetri. È il vento, dicono i vivi, pensando alle cose passate, alle persone scomparse, ai volti quasi cancellati dalla memoria. Di Achille Campanile vi abbiamo regalato questo capolavoro, I nostri morti, ed è proprio così, perché la vita non finisce qua sulla terra, ma continua in un altro mondo, nella casa del Signore. Cari amici, noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio Jeff White per questo spazio veramente prezioso, perché in 15 minuti vi parliamo italiano, cosa che purtroppo sulle onde corte è sempre meno usato, noi però siamo qui. Grazie a Jeff potete sentire I Love Italy, potete sentire parlare in italiano. Da Andy Mangiarotti è tutto, grazie, e cediamo la linea allo studio di Occhi Ciobi, prima però di averci ascoltato la nostra sigla. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao, ciao da Andy, ciao, grazie, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. I love Italy, yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy.